Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con il meglio di essere e avere. Vi riproponiamo gli approfondimenti, le interviste, le storie che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi, nella consapevolezza che anche il mondo dei consumi in questo momento sta attraversando grandi cambiamenti destinati a trasformare molte cose nel prossimo futuro. Questa sera vi riproponiamo la classifica annuale delle vie dello shopping, le cosiddette Main Streets, le vie del lusso come via Monte Napoleone a Milano oppure la Quinta Strada a New York, solo per citare due fra le più famose, una classifica che fra le righe rivela come cambiano gli equilibri del retail tra brand di lusso e low cost, tra geopolitica, economia e turismo. Difficile al momento prevedere come l'emergenza coronavirus sia destinata ad impattare anche questo settore. Spazio poi anche alla prima piattaforma e-commerce interamente dedicata alla moda sostenibile. Monte Napoleone, il salotto di Milano, ritrovo del signore dell'elite della città, la mia Monte Napoleone. Si conferma la quinta via commerciale più costosa al mondo, via Monte Napoleone a Milano, la terza in Europa. Lo rivela la nuova edizione della classifica annuale Main Streets Across the World, curata da Cushman & Wakefield. Al primo posto della classifica, che prende in esame i canoni di locazione di oltre 400 location in quasi 70 mercati nel mondo, c'è un'altra conferma, Causeway Bay di Hong Kong. Nonostante i disordini di questo periodo, evidentemente il mercato non ne ha ancora preso atto, seguita poi dalla Quinta Strada di New York e da New Bond Street a Londra, che svetta in Europa davanti a Parigi e Milano. Con Thomas Casolo siamo partiti proprio da via Monte Napoleone. Quello che viene riscontrato è ovviamente la crescita che ha sicuramente avuto ancora quest'anno Monte Napoleone, che rimane sempre una delle vie più importanti, più richieste dal punto di vista delle aziende principali del lusso, e che continua a dare delle ottime soddisfazioni. Milano terza in Europa, ecco, a livello europeo che cosa possiamo evidenziare? Sicuramente le difficoltà di Londra, rimane sempre una delle mete, delle città come Parigi più gettonate dal punto di vista delle grandi aziende, ma proprio perché ovviamente il bacino su cui lavora è enorme, però devo dire sinceramente che ha sofferto e sta soffrendo tuttora, il numero delle transazioni è rallentato, è diminuito rispetto all'anno precedente e anche i rinnovi dei contratti ovviamente ne hanno risentito. Parigi, stesso problema con i gilet gialli, abbiamo riscontrato anche con loro, hanno avuto un enorme problema per un lungo periodo, però poi alla fine ha tenuto anche molto bene. A livello italiano, oltre a Milano, chi possiamo citare? Ma guardi, allora, Roma, devo dire sinceramente che è una realtà molto strana, nel senso che ha un prezzo medio al metro quadrato molto alto rispetto a quello che si sente poi dal punto di vista delle aziende sui fatturati. La differenza tra il fatturato di Milano e il fatturato di Roma è abbastanza importante. Sorprendente la crescita che sta avendo Venezia, è molto richiesta da parte del mercato, principalmente del mercato del lusso, meno sul mercato del mass market. E Firenze, che nonostante tutto quello che si è detto attorno a Firenze, gli auto, i centri commerciali, sta reagendo molto bene. Diciamo che le prime cinque città, oltre a queste appena citate, metterei anche lì sta Torino, che è una città che tutto sommato, se andiamo a guardare, ha una realtà molto interessante via Roma, dove troviamo sia il mercato del mass market sia il mercato del lusso con ottimi brand, perché insomma Hermès, Chanel sono presenti, Ferragamo, Gucci, Prada e poi tutto il mercato del mass market. Un ulteriore punto su Forte dei Marmi, che ormai è una realtà non solo turistica ma anche stabile, perché lavora praticamente 9 mesi all'anno e sorprendentemente c'è una forte richiesta anche su Capri. Che tipo di osservazione possiamo fare in conclusione? Metà delle prime 10 location è europea, 4 sono in Asia, una negli Stati Uniti. Abbiamo visto da quello che ci ha raccontato finora come la vostra classifica fra le righe racconti anche le trasformazioni geopolitiche, economiche. Allora, innanzitutto che sicuramente il cambiamento del mercato va affrontato, va gestito. C'è una selezione, una maggior selezione sulla scelta delle location. Sulle città più importanti ci sarà sempre una forte attenzione e una crescita del mercato, però gli investimenti saranno molto mirati. Sapete che l'industria tessile è la seconda industria più inquinante al mondo, dopo quella del petrolio e del gas. Una consapevolezza che dai consumatori, dal basso dunque, sta arrivando anche all'intero sistema moda, dalla produzione alla distribuzione. Acquistare con certezza un capo al 100% sostenibile però non è facile. Nasce da questi presupposti Slow Nature, piattaforma e-commerce interamente dedicata alla moda green. Ecco che cosa ci ha detto la fondatrice Olga Janowska Bianchi. Il nostro obiettivo è cambiare il mondo di moda. Sappiamo bene che oggi la moda è l'industria numero 2 inquinante di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è dare la visibilità a quelle aziende che già oggi producono la moda in maniera sostenibile e etica. Come selezionate le aziende e i capi? Noi cominciamo, la nostra selezione comincia con materie prime, con quali sono prodotti, l'abbigliamento. Guardiamo che il tessuto è cosiddetto eco-friendly, che vuol dire è prodotto con materiali riciclati, da un lato, o eco-friendly, che per esempio possono essere materiale organico, biologico, o altrimenti innovativo, che sono questi nuovi tessuti che sono più ecologici, per esempio Tencel. Ecco, noi guardiamo proprio quell'aspetto lì, che il materiale, il tessuto con cui abbigliamento è prodotto è eco-friendly. Poi dall'altro lato è anche molto importante che l'abbigliamento è prodotto in condizioni di lavoro etiche. Quindi un rispetto a 360 gradi dell'ambiente e delle persone, quindi in questo senso. Quanto dal tuo punto di vista sta crescendo l'attenzione dei consumatori a questa tipologia di produzione, a questa tipologia di prodotti? L'attenzione sta crescendo molto molto veloce. Abbiamo visto che il 66% dei consumatori, dei millennials intorno al mondo, già vogliono comprare prodotti sostenibili e sono anche disponibili a pagare di più per prodotti che rispettano l'ambiente. Sapete che 4 italiani su 5, ci dicono i dati We Are Social, giocano ai videogame, dall'app passatempo ai bestseller da console. Il 60% di chi è connesso lo fa dal telefonino e uno su 8 segue il live streaming di altri giocatori. Un fenomeno in forte espansione, un contesto, uno scenario in cui vi raccontiamo la storia di Gamindo, startup italiana, prima piattaforma al mondo che permette alle persone di donare senza spendere giocando ai videogiochi. Oltre 20.000 utenti in pochi mesi, aumentati esponenzialmente in questo periodo di emergenza, soprattutto durante il lockdown, con il risultato di molte donazioni agli ospedali. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa vi raccontiamo anche Up to You Anthology, è una piattaforma e-commerce dedicata al mondo delle borse che trasforma chiunque abbia un'idea in un designer, e infine un giocattolo che si propone di contrastare la dipendenza dei più piccoli da smartphone e tablet. È una scatola magica, racconta storie, arriva questa volta da una startup francese appena sbarcata anche in Italia.

terminate quelle non puoi più giocare e donare. Queste 20 gemme al giorno, poniamo che uno giochi ogni giorno per una quantità sì. moderata, come avete definito voi, alla fine in quanto si traducono come donazione? Allora, nei progetti speciali la gemma ha il valore di un centesimo, mentre negli altri progetti dipende e il valore è inferiore. Nonostante questo, noi cerchiamo in tutti gli aspetti della piattaforma di sottolineare che il vero valore in Gamindo non è dato tanto da quanto dà il singolo, ma l'insieme di persone con lo stesso obiettivo. Non è tanto il 10-15 centesimi che magari dona una persona in un giorno, ma quello che tutti assieme facciamo. Che obiettivi ti sei dato, vi siete dati, Nicolò? Allora, l'obiettivo nel breve termine è sicuramente, ora essendo startup, puntiamo a un round di investitori e a far crescere il più possibile la piattaforma, e l'obiettivo è quello di raggiungere almeno i 200.000 utenti in quest'anno. Nel medio-lungo termine invece l'obiettivo è proprio quello di rivoluzionare il mondo della beneficenza, quindi permettere a chiunque di donare senza spendere e divertendosi, che questa è un po' la mission che ci siamo dati, e quella quindi di dare la possibilità a chiunque ha un telefono, e ormai ce l'hanno quasi tutti, di avere un impatto sul mondo anche senza mettere mano al portafoglio. Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con 3 coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD? Come posso non saperne niente? Resta con me, ti sistemo io. If I had one chance to in my life again, I wouldn't make no changes now way back when. Oggetto del desiderio, punta di diamante per molti brand, territorio di sperimentazione per molti creativi e per nuovi modelli di business. Non da oggi le borse sono motivo di attenzione, ecco perché vi raccontiamo Up to You Anthology, neonata piattaforma e-commerce che si propone come vetrina democratica di qualità, aperta a chiunque abbia un'idea creativa valida e voglia proporla al mercato. La piattaforma ospita inoltre collaborazioni con designer del calibro di Nendo e Giulio Cappellini, solo per citarne un paio, per modelli one of a kind. Ecco che cosa ci ha detto il fondatore Nicolò Gavazzi. Chiunque può, attraverso questo sito, disegnarsi la sua borsa, produrla e venderla e guadagnarci dalle vendite. Ho chiesto ad alcuni designer famosi di disegnare delle borse ed è interessante come sono venute fuori delle cose molto originali, innovative. Però mi piacerebbe appunto che chiunque abbia voglia possa provare a creare qualcosa di nuovo. Sono partito da una collezione di designer del mondo design, arredamento, architettura, ma in realtà chiunque, il target è chiunque. E la speranza è che chiunque contribuisca col suo network, quindi questi designer famosi ovviamente avranno un network magari un po' più grande di una persona normale, però ciascuno promuoverà il suo prodotto perché è lui a guadagnarci, è lui l'imprenditore, è lui a scegliere il prezzo, a scegliere come produrre la borsa, come fotografarla, come raccontarla. Quindi logica di disintermediazione, insomma, come il web, il retail più evoluto esige. E con quale logo usciranno le borse? Allora, il logo è Up to You Anthology e il nome del designer, perché in effetti sono entrambi il brand della borsa, quindi sia il designer stesso che Up to You, che si occupa comunque della produzione e della piattaforma di vendita. La produzione come viene gestita? Tutta in Italia, e noi cerchiamo il fornitore adatto alla singola borsa, quindi una borsa in plastica andremo da un fornitore, una borsa in pelle magari da un altro. I prezzi chi li definisce e in quale fascia siamo? Allora, i prezzi li definisce il designer, quindi il designer viene a sapere un costo di partenza dal quale costruisce il prezzo. E per ora i prezzi sono più o meno tra i 200, anche qualcosa di meno, e i 750 euro, soprattutto attorno alla fascia 300-400. E poi lo vedo. Grande! Grosso! muscoloso, enorme. Cibo per almeno un mese. Faccio, come stabilito, il verso del gufo. Spero che vecchia Gazza e le altre mi sentano. Vedo l'erba muoversi in lontananza. Questa è una delle storie di Luni, la startup francese nata nel 2014 appena sbarcata in Italia. Si propone di contrastare la dipendenza dei più piccoli da smartphone e tablet. Luni è una scatola magica, racconta storie. Pochi tasti, niente schermo, la possibilità per i genitori di scaricare storie sempre diverse tramite l'app e per i bambini di personalizzarle. Lorenzo Asuni. Dalla possibilità genitori di dare un giocattolo comunque educativo ai bambini che li possa allontanare da quelli che sono le normali abitudini che troppo spesso i genitori stanno prendendo, ossia dare un tablet o dare uno smartphone ai bambini per fargli passare il tempo. Possiamo definirlo un giocattolo analogico o una via di mezzo? Diciamo che è una via di mezzo, perché si tratta di una box canta storie, che racconta delle storie in cui il bambino può interagire facendo fare delle decisioni al personaggio, oppure può interagire scegliendo il nome del personaggio. Quindi il bambino entra, un po' come si faceva un tempo, all'interno della storia. In questo caso Luni racconta un sacco di storie e il bambino può interagire con esse. C'è un catalogo di storie che possono essere acquistate, o ci sono già delle storie inserite all'interno della scatola magica, ma ci sono tutta una serie di storie che all'interno di un negozio online possono essere caricate dai genitori e hanno dei grossissimi autori, sia stranieri che italiani, che hanno scritto appunto delle storie proprio dedicate a Luni. È come il mangiadischi di una volta, ma interattivo. Io sostanzialmente lo chiamo quello che sono le vecchie musicassette. Questo, diciamo, approccio ha avuto un enorme successo in Francia, è diventato un caso studio europeo, e al momento sono oltre 300.000 le famiglie che l'hanno acquistato in Francia, e per questo motivo hanno deciso di aprire anche altri mercati come l'Italia, che è uno di quelli dove puntano di più per il 2020. Ma anche Russia, Inghilterra, Spagna e successivamente anche nuove nazioni dell'est. La piattaforma è www.luni.fr o.it, e poi si può trovare comodamente anche la Città del Sole, che sono la catena di negozi di giocattoli che si può trovare un po' in tutta Italia. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.